Iniziamo questa mattinata qui in radio e ringraziamo i compagni e le compagne che sono qui insieme a noi, che sono venuti insomma, a portare il loro contributo qui a Radio Onda Rossa. E siamo con la rappresentante del CNI e del CIG, che come tanti e tante sapranno è il Congresso Nazionale Indigeno Zapatista che sta invadendo pacificamente tutta quanta l'Europa con la carovana. Innanzitutto grazie per essere qui. Siamo qui appunto per questa intervista che ci piacerebbe chiamare più un confronto, più che un'intervista qui in radio. E quindi cominciamo subito con le domande. Da qualche mese la carovana è in giro per l'Europa e quindi la prima domanda che volevamo fare come radio era appunto: come sta andando il viaggio? Come è partito e soprattutto quali sono le prime impressioni? Entonces, agradezco de estar aquí con ustedes y en esta invasión pacífica. Y la primera pregunta que os pregunta es que cuáles son estas primeras impresiones después de casi un mes de viaje en esta geografía insumisa. Claro que sí, buenos días. Las impresiones que llevamos hasta ahorita de que llegamos, pues han sido muy importantes para nosotros, que la idea era venir a conocer otras luchas, otras resistencias, conocer hermanos, hermanas, compañeros, compañeras que sí están organizados ante este sistema capitalista, cómo le están haciendo, ¿verdad? Conocer hombres, mujeres, estudiantes, ver si acá en estas otras geografías se organizan así como lo hacemos en México y si les han funcionado ese tipo de organización y también nosotros poderles platicar lo que estamos haciendo para poder detener este despojo que está llevando este sistema capitalista. Entonces, lo que hemos visto es que hemos encontrado organizaciones, colectivos, cooperativas, estudiantes, mujeres, organizaciones de mujeres que están luchando y se están organizando y están defendiendo también este planeta de ser destruido. Entonces, eso nos hermana, hermana, de que justamente aunque estamos lejos, pero estamos sintiendo que tenemos un enemigo en común y que ese enemigo en común es grande, es fuerte, como decimos allá, y tiene sus tentáculos en todos lados. Y si todos vamos destruyéndolo poco a poco y haciendo algo diferente, lo podemos lograr. Entonces, los pocos días que llevamos, o casi ya la mitad, hemos visto que sí hay esas resistencias y sí hay esas luchas y sí hay posibilidad de poder seguir caminando juntos a distancia, pero sí con un mismo objetivo, acabar con este sistema de muerte y construir uno nuevo que dé vida para los demás, ¿no? Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Diciamo, le impressioni fino adesso sono state molto importanti, molto positive per la delegazione del CNI. Loro sono venuti qui proprio per conoscere le lotte, le resistenze, i fratelli e le sorelle, i compagni e le compagne, le organizzazioni che qui resistono contro il capitalismo. Fratelli e sorelle, studenti. Sono venuti proprio per vedere come in questa geografia così lontana come ci organizziamo e come funzioniamo e per spiegare a noi come funzionano loro e cosa fanno per resistere a questa spoliazione capitalista che vivono lì in Messico. Hanno incontrato organizzazioni, collettive, cooperative, studenti in lotta che difendono questo pianeta che viene continuamente distrutto. Ci considerano e ci sentono come fratelli e sorelle lontane e lontani, ma con un nemico comune, che è grande, forte, spande i suoi tentacoli ovunque sul pianeta, ma se tutti ci mettiamo in gioco per distruggerlo con le nostre diversità e trovare qualcosa, per costruire qualcosa di diverso, riusciremo nel nostro obiettivo. In questi pochi giorni hanno visto che effettivamente sì, anche qui c'è una resistenza e una possibilità di camminare uniti a distanza, ma come dire, per lavorare, per appunto smetterla con questo sistema e costruirne uno di nuovo. Su Radio Onda Rossa, una radio che fa una comunicazione militante per il sabatismo, per il CNI, è stato sempre molto importante quello che si chiama el eje della palabra, l'asse della parola, una forma diversa di fare comunicazione per arrivare di una forma migliore a chi ci ascolta. Quindi io chiederò su questo, come stanno lavorando in questi tempi, soprattutto di post-verità, no? Con tanta di quello che si chiama fake news. Un asse importante come è stato quello de la parola. Decía, estamos aquí en Radio Onda Rosa, una radio que trata de hacer una comunicación distinta a la hegemónica, militante, para el zapatismo, para el CNI. El eje de la palabra ha sido siempre muy importante para comunicar, ya desde el 1 de enero del 94, el por qué se salía, digamos, a la luz. Quisiera saber justamente, en este trabajo de la gira, cómo están manejando la comunicación, que insisto, lo han hecho siempre de una forma muy creativa y que es importante en estos tiempos, decía yo, de falsas noticias, de posverdad, de conceptos que se confunden, de mentiras alevosas inclusive desde los políticos. Entonces, ¿cuánto es importante para ustedes seguir trabajando este eje de la palabra y cómo lo están haciendo en estos tiempos? Pues para nosotros es importante que se sepa lo que está pasando en las comunidades, en los pueblos y que los medios oficiales en México no dan la palabra, no transmiten lo que es, al contrario, transmiten otra información que lesiona a las comunidades. Entonces, eso ha hecho a que las mismas comunidades vayan creando sus propias herramientas de comunicación, y unas son las radios comunitarias, radios que están transmitiendo hasta en la misma lengua de las comunidades para que, pues, ellos mismos se entienda al interior. Entonces eso está surgiendo porque es una manera de informarnos, de mantenernos. Otros que son un poco más creativos, pues no solamente usan radio, sino que también las herramientas técnicas de la tecnología las están poniendo a disposición al interior. Y pues la otra parte, pues lo escrito, ¿verdad? Lo que hacen los comunicados que salen y que tratamos de utilizar los medios libres para que ellos transmitan esa información. Ya no confiamos ni en la televisión ni en los periódicos oficiales, porque lejos de ayudar, pues lo que hacen es lesionar. Entonces es necesario que se sepa si creemos que queremos que se transmita lo que realmente pasa en las comunidades, pues tenemos que crear nuestras mismas herramientas de información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros como CNI tenemos nuestra página, una página que es alimentada con información verídica de las comunidades y que para nosotros es una herramienta importante. Entonces, y así cada local pues tiene una manera de estar informando, porque hay veces las radios oficiales o los periódicos oficiales lo que sacan es que aquí hay, por ejemplo, aquí hay narco, acá la comunidad es violenta. Acá, o sea, sacan así. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sacar información de la comunidad, por ejemplo, que tiene sus fiestas, que tiene su cultivo propio, que tiene su organización, que se vea lo que es la comunidad. Y pues eso solamente tenemos que hacerlo nosotros con nuestras propias herramientas, ¿no? Allora, Silla, ovviamente la comunicazione è un aspetto molto importante perché hanno la necessità di far sapere quello che succede nelle comunità indigene, perché ovviamente tutti i media ufficiali del Messico danno tutta un'altra narrazione di quello che succede. Non dà spazio, ma raccoglie info che danneggiano le comunità con false notizie, appunto. E questo quindi ha spinto le varie comunità a auto-organizzarsi e quindi sono nate varie esperienze di radio comunitarie, alcune addirittura nelle lingue native, che è un altro aspetto quello linguistico che viene ignorato. E questo è il modo che hanno trovato per informare e informarsi, perché parlando delle loro notizie fanno anche informazione interna. Ovviamente non è l'unico mezzo, altre persone con un po' più di compagni e compagne con un po' più di creatività usano anche tutto il panorama degli strumenti tecnici e del mezzo del media a disposizione delle comunità, sia per comunicazione interna che anche per comunicazione esterna. Ovviamente utilizzano anche tutte le forme scritte, comunicati e testi, perché non si fidano, ovviamente questi con i media liberi, perché ovviamente non si fidano dei media ufficiali e quindi si tengono ben alla larga. La necessità appunto che vogliono trasmettere quello che succede nelle comunità, sia al di fuori che sia che le altre comunità, e appunto per questo il Congresso Nazionale Indigeno ha un suo proprio sito dove carica tutte le informazioni e tutti i propri comunicati, e ci sono anche altre esperienze simili. Sulla domanda specifica sulla radio, che comunque partecipano, anche le radio in Messico contribuiscono a questo lavoro di narrazione e descrivendo le comunità indigene come posti in cui si pratica il narcotraffico, sono violente, bisogna tenersi alla larga e quindi insomma hanno bisogno proprio di usare lo strumento comunicativo per combattere contro questa narrazione. E proprio quando ci parli di comunicazioni interne, appunto, questo qui magari è uno degli aspetti che ci piacerebbe un po' approfondire sul modo in cui avete, diciamo, trattato la comunicazione interna in un momento difficile che può essere stato appunto quella dell'entrata in un momento storico come quello che stiamo vivendo, quello della pandemia. Quello che ci interesserebbe sapere, insomma, è come è stata gestita questa comunicazione interna. Chiedo a sapere specificatamente la comunicazione interna e in questo periodo tan difficile di pandemia, come organizzaste, come funzionò questa comunicazione interna quando non potete desplazare e tutto questo? Sí, pues se usaron las radios o se usaron algunas tecnologías del teléfono donde hay señal. Entonces de ahí la información fluía al interior de las comunidades pues a través de las radios, ¿verdad? Pero hacia afuera a través de un celular, un video. Y de hecho en las comunidades pues se decía sí tomar medidas usando pues un medio de qué teníamos que hacer y poner a poder alertar, pero también se pedía recurrir mucho a la curación local, usando también, informando, porque en persona que salía, en persona que se moría. Entonces los medios sirvieron para informar que recurrieran a curarse con lo propio que se tiene en las comunidades, las plantas, para evitar que se hubiera más contagio. Y pues sí, pudimos ver que sirvió mucho la información a través de las radios, de la tecnología, pero también a través de escritos que se mandaban de qué hacer para. Entonces, utilizamos esas herramientas, radio, celular y el escrito también, ¿verdad? Allora, ovviamente non potendosi muovere, sì, è stato fatto un largo uso della radio e di tecnologie anche diciamo superiori, laddove c'era segnale per i cellulari, venivano utilizzati per far confluire le informazioni nelle comunità, quindi su, su quali erano le indicazioni da seguire, ma soprattutto su, ed è stato chiesto un grande sforzo nelle comunità per comunicare laddove ci fossero casi, epidemie, così da avvisare tutte le persone vicine e mettere in campo le, come dire, le azioni collegate. E ovviamente radio, ma anche video, anche testi laddove non si poteva raggiungere o non c'erano gli strumenti necessari per far ascoltare a tutti, e questo ha permesso, insomma, di riuscire a contenere e a gestire la situazione. In queste ultime due risposte è venuta fuori l'importanza della radio. Io insisterei almeno un'ultima volta, forse, perché siamo a Radio Onda Rossa, una radio proprio che fa comunicazione a partire attraverso questo mezzo di comunicazione, in un paese dove si dice l'FM, la forma di ascoltare radio come eravamo abituati, sta un po' scomparendo, no? Verso altre forme. Loro, dicevo, hanno fatto capire finora che c'è un ruolo importantissimo, vorrei approfondire su questo, quindi la mia domanda sarà giustamente anche una cosa più tecnica: come gestiscono queste radio, l'importanza non solo per l'informazione che ha specificato, ma anche l'importanza culturale di fare radio nelle lingue native, perché penso che lì non ha solo un uso in quanto l'informazione, ma un uso sociale e pure culturale. Da appassionato della radio farò questa domanda. Has dicho en las últimas dos respuestas la importancia de la radio por distintos motivos. Estamos en una radio, decía yo, en un país que pareciera va viendo desaparecer la FM, ¿no? La forma de escuchar radio que teníamos antes. Sin embargo, en las comunidades sigue cumpliendo un rol muy importante. Y decía, no solo desde el punto de vista informativo, pero también imagino cultural, social, hablando en los distintos idiomas nativos para poder reproducir y poder obviamente transmitir, que no mueran, ¿no?, esas lenguas. Entonces, digo, no solo es una importancia informativa la que tienen las radios. Te quisiera preguntar o que profundices en cómo gestionan las radios, en esta importancia, en la participación seguramente de las comunidades en las radios, porque decías vos que es una cuestión de autogestión, ¿no?, de autoorganización, por lo tanto imagino que no son radios con personas que están ahí solo a hacer radio. Entonces querría que profundices en esto, en explicarnos cómo funcionan estas radios, cómo se gestionan, cuál es la participación de las comunidades en ellas, y justamente que nos hables tal vez un poco de la importancia también cultural, no solo informativa. Sí, sí, precisamente son radios comunitarias porque todo se plantea en común, en colectivo, y por la misma necesidad de transmitir información, porque hay veces tenemos que caminar 8 o 10 horas de una comunidad a otra. Entonces la radio pues lo que hace es eso, avisar que va a haber una asamblea, que va a haber algo, entonces rápido por la radio y ya de ahí pasan el mensaje. Entonces pues por lo mismo es una radio que se piensa desde la misma comunidad y algo sencillo, se inicia con, no sé, una computadora, lo básico, y unos micrófonos y buscan de cómo mandar esa señal. Ha habido algunos casos donde les han destruido sus radios, llega la Marina y les han destruido sus radios y pero alcanzan a dar el aviso a través de la radio y rápido llega la comunidad. Todos llegan y detienen el que destruyan la radio. Entonces también, como lo dicen en su lengua, los que llegan no se dan cuenta lo que están diciendo en la radio. Entonces, pues la gente rápido llega y impide que destruyan esas radios. Entonces es una radio colectiva, es una radio que no es para estar pasando canciones, que sí también pasan las canciones en su lengua, y pueden estar hablando y comunicándose, porque hay comunidades que es el 90% que habla su lengua y un 10% que habla, entonces por eso se transmite también en eso, para que se entienda. Entonces sí sirve y es colectivo porque es una herramienta de comunicación que usan, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso ya. Allora, sì, le radio sono molto importanti, appunto, e sono radio comunitarie, perché nelle comunità tutto è comunitario, tutto è collettivo, quindi ovviamente le costruiscono e le portano insieme. È molto importante perché, appunto, è un territorio molto vasto, con distanze, è un territorio anche non proprio così facile da attraversare, e quindi sono comunità che sono anche a 8 ore di cammino l'una dall'altra, e quindi questo permette anche con pochi strumenti, perché alla fine basta un PC o un microfono, di avvisare se ci sono assemblee improvvise o comunque comunicare sul lavoro e dare quindi tempo alle varie comunità di potersi organizzare e muoversi per tempo. Ovviamente sono queste case, comunque queste radio, così sono numerosi casi anche in cui il governo sotto varie forme viene e distrugge queste radio. Ci cita un caso in cui la Marina addirittura è intervenuta nell'entroterra per distruggere queste radio, ma la radio aveva fatto in tempo a avvisare la popolazione, che è arrivata in difesa della radio, fermando gli invasori, diciamo, nuovamente. Ovviamente come contenuti, oltre a informazioni sulle varie attività comunitarie e assembleari, ci sono anche trasmissioni anche, come dire, un po' più ludiche, quindi anche canzoni in lingua, anche perché proprio nelle comunità spesso e volentieri la parte, diciamo, di popolazione che non parla il castigliano è la maggioranza, quindi sono comunità in cui solo il 10% della popolazione, diciamo, capisce il castigliano, però appunto il 90% parla la loro lingua nativa, ed è quindi utilizzano questo mezzo anche per promuovere la lingua e l'uso della lingua. Un'altra domanda che ci faceva piacere, insomma, farvi era quella che riguarda appunto il progetto della carovana zapatista, questa carovana che sta attraversando tutto quanto lo stivale per confrontarsi appunto con i militanti e con le militanti. E, quello che volevamo sapere era cosa sperate, vi aspettate di portare indietro al termine della carovana e come continuare appunto il percorso che stiamo facendo. La pregunta che chiedías preguntarse es que cómo que se es sobre específicamente en esta gira zapatista que está recorriendo todo la bota en Italia, la llamamos la bota porque no sé si ya te contaron que tiene como forma de bota. Y entonces quiere preguntar qué esperáis de esta gira, de estos encuentros con estas comunidades de esta geografía. Claro que sí, pues lo que esperamos como Congreso Nacional Indígena es tener ese acercamiento con otras luchas, con otras resistencias de hombres, mujeres, estudiantes y pues todos los trabajadores del campo, la ciudad, y que no solamente sea una visita así de doctor, como decimos en México, que venimos, vemos y ya nos vamos y ya, adiós. No, lo que queremos es cómo de aquí en adelante tejer esas redes de resistencia y rebeldía, esas redes que son importantes de llevar de aquí en adelante, porque si tenemos una tarea de cuidar este planeta, pues tenemos que seguir manteniendo esas redes, tenemos que seguir teniendo esa comunicación y cada quien haciendo nuestro trabajo de acuerdo a nuestros modos, a nuestros tiempos, a nuestras formas, porque no podemos hacer una sola actividad todos, pero si dentro de cada actividad que se hace en cada lugar tenemos un objetivo en común, eso es lo que nos hace iguales y eso nos hace que tenemos que tener una comunicación de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces eso esperamos. Allora, come CNI sono venuti qui per appunto cercare vicinanza e costruire vicinanza con le lotte, le resistenze, gli studenti, i lavoratori sia della città che della campagna e con anche i cittadini su appunto che non sono qui, come chiamano loro, per una visita medica, visita del dottore che arriva, ti guarda e se ne va, ma sono venuti proprio per tessere nuovi passaggi, nuovi elementi di questa rete di ribellia e resistenza a livello globale. Il loro obiettivo è proprio di, dovrebbe essere anche il nostro obiettivo, di curare il pianeta e proprio mantenere questa rete di comunicazione e di lotte che ci unisce. Ovviamente dobbiamo farlo in rispetto, rispettando e secondo i modi, i tempi e le forme di ognuno, perché non possiamo tutti fare tutto, ma ognuno nel proprio campo, nel proprio settore, nel proprio specifico può e deve dare il proprio contributo in questa, come dire, lotta globale contro quest'idea capitalista. Vedo che la compagna esprime veramente un senso, come dire, di buone prospettive del lavoro che si può fare con i compagni e le compagne qua in Europa. Non possiamo nascondere comunque che l'Europa e le Americhe hanno avuto sempre un rapporto un pochino travagliato, no? Diciamo. Quindi per me sarebbe interessante in questo rapporto, anche considerando, credo io, forse a priori, che loro possono trovare altre realtà simili in altre geografie, per questo in tutta l'America, forse nell'Africa, nell'Asia. E qua con l'Europa forse si fa un pochino più di fatica, no? A trovare i punti in comune che comunque si trovano, lo ha espresso molto, molto bene. Ma vorrei chiedere se lei vede nella compagneria italiana, europea, quella che ha conosciuto finora, un approccio forse un pochino meno europeista, anche con, no, intenzioni buone di collaborare, perché a volte questo passaggio si fa fatica a farlo, no? In queste geografie. E quindi vorrei sapere la sua opinione in questo senso. Decía yo que Europa ha tenido siempre con todas las Américas una relación difícil, digamos, ¿no? Por ser benévolos. Por ser benévolos, ¿no? Usamos un eufemismo, ¿no? Difícil. Y tal vez sea más fácil para ustedes encontrar puntos en común con personas de todas las Américas, de África, de Asia, ¿no? Y con Europa haya que saltar este pequeño escaloncito que tenemos. Y pienso, y he visto yo, que también aquí, a veces entre los compañeros y las compañeras, hay todavía una posición un poquito europeísta, les cuesta, ¿no? Salirse de su cascarón, buscar otras perspectivas para ver las cosas. De todas maneras, nos has contado que has encontrado realmente compañeros y compañeras bien organizados, dando cada uno su lucha en su lugar. Pero te quería preguntar esto, ¿cómo ves esa compañería, ¿no? Esos compañeros y esas compañeras europeas, si las ves, los ves predispuestos realmente a aprender, a escuchar sobre todo, a realizar un intercambio más equilibrado, ¿no? Tratando de romper esa relación que hemos tenido americanos y europeos desde hace 500 años y más, ¿no? Si ves esa predisposición, además de buenos proyectos de organización, gente que sabe lo que tiene que hacer en su territorio, porque es importante para lo que decías, lograr empatía, lograr comunicación. Si no, vamos a estar siempre, me parece, un poquito desequilibrados. No sé cómo has visto a los compañeros y compañeras en este sentido. Pues lo decía al principio que habíamos visto grupos de campesinos, de cooperativas, de organizaciones, de mujeres que tienen, sienten que así como todo América Latina, México, fue destruido, despojado, masacrado hace más de 500 años, acá también les ha golpeado, ¿verdad? Aunque están acá, nosotros decimos es que son los países desarrollados, ¿verdad? Pero hemos encontrado esas luchas, esas ganas de poder contribuir para seguir conservando la tierra, las aguas, los bosques. Lo veo en los campesinos que hemos visitado y con el ánimo de tejer esas redes, con el ánimo de ayudar, dicen, pues no tanto ayudar a nosotros, sino ayudar al planeta, ¿verdad? Algo muy importante que vimos en Bolivia, una comunidad que están resistiendo porque hay una, creo que es del grupo Danone, de Bonafón, donde están extrayendo agua y lo que están haciendo es que cada vez están bajando más el agua. Y están teniendo comunicación con un grupo de México, de Puebla, una comunidad de Puebla que tomaron, ocuparon una, Bonafón y que a raíz de que la ocuparon, el agua está volviendo otra vez a su normalidad. Entonces, ese tipo de acercamientos, yo creo que son posibles. Hay grupos, hay colectivos y hay individuales, ¿verdad? Y lo que hemos dicho es que tiene que ser en colectivo. Si no hacemos colectividades, si no pensamos en ir creando esas redes, solitos no vamos a poder, ¿verdad? Eso decimos los pueblos en México. Es que es una tarea de todos, ¿verdad? Y todas. No es una tarea de salvar el planeta solamente de los pueblos. Los pueblos lo sentimos porque es nuestra vida, es nuestra existencia. Pero ahora es tarea de todos, porque si no producen los campos, no hay comida en la ciudad. Y si no hay comida, ¿de qué vamos a vivir? ¿Verdad? Entonces, por eso decimos la importancia de caminar en colectivo, que hacen falta campesinos, que hacen falta las mujeres, que hacen falta los maestros que estén al servicio de dar una educación que vaya más con la recuperación de ese planeta, ¿verdad? Que no, que si estamos viendo que todas estas estructuras que están diseñadas por alguien que está pensando solamente en hacer dinero, bueno, nos toca a nosotros hacer otra estructura que esté pensada para la vida, para seguir pensando en que los que vienen atrás les tenemos que dejar algo que puedan seguir viviendo. Si no, lo que viene después, si dejamos todo, va a venirse una catástrofe, un colapso del planeta, y no va a elegir blancos, negros, ni ricos, ni pobres, ni niños, va a agarrar parejo. Entonces, por eso decimos la importancia de caminar colectivamente, que ya no tenemos que hacer algo de manera individual, tenemos que hacer esos colectivos, esa comunidad, trabajarla. Entonces, yo creo que sí es posible, y que pensemos en lo que viene, ¿verdad? Y eso nos hace que tenemos que caminar juntos y juntas, ¿verdad? Allora, hanno incontrato molte, molte comunità resistenti, sia di contadini, di donne, di studenti, che hanno visto che erano empatici verso la condizione di chi abita il Messico e di questa distruzione che va avanti ormai da 500 anni, ma erano anche coscienti di come questa distruzione si riflettesse anche qui, di come comunque, anche se quello che i contadini qui soffrono delle condizioni del capitale è minore di quella in potenza di quella che soffrono laggiù, è comunque parte dello stesso collegamento e della stessa lotta, e quindi la risposta può essere collettiva e comunitaria, anzi deve essere collettiva e comunitaria, perché appunto le lotte devono tendere a conservare la terra, i campi, le lotte, le acque, l'ambiente, e devono tessere le reti non tanto per aiutare gli altri popoli, ma per aiutare il pianeta stesso, perché è quello il vero, il vero soggetto che è veramente in pericolo. Fa l'esempio di collegamenti che ci sono già stati, fa per esempio questa cittadina in Francia, dove una fabbrica della Bonafort, che è una società partecipata della Danone, ha pompato via tutta l'acqua dalle falde acquifere, e quindi la comunità sta resistendo e protestando per questo furto di acqua, e sono entrati in collegamento con questa comunità in Messico che aveva avuto lo stesso problema con la stessa impresa, la Bonafort. Hanno occupato la fabbrica, sono riusciti a far smettere, a interrompere l'attività, e l'acqua è tornata a scorrere magicamente nelle fonti. Quindi i collegamenti sono possibili, bisogna costruirli, sono possibili tra singoli individui e tra collettivi, ma dobbiamo cercare di crearli tra collettivi e tra comunità, perché i singoli da soli difficilmente riescono ad avere strumenti e forze, e soprattutto perché è compito di tutte e tutti salvaguardare il pianeta, invertire il processo, non solo dei popoli regionali o delle comunità che più subiscono questa spoliazione. Perché un ragionamento appunto abbastanza semplice: se i campi non producono cibo, non c'è cibo in città per i cittadini, quindi bisogna unire queste lotte e camminare in collettivo, sia cittadini che contadini che tutti quanti, perché le strutture che ci vengono calate dall'alto sono disegnate da chi ha come obiettivo soltanto il mero guadagno economico, soltanto il denaro, mentre noi pensiamo che dobbiamo costruire delle strutture per il futuro, verso, insomma, che rilancino in avanti per provare a provare almeno a impedire questa catastrofe planetaria che ci si prospetta davanti e che non farà differenze sociali, razziali, di genere, colpirà tutti quanti, quindi siamo proprio tutti coinvolti. Tutto si fa insieme, bisogna lavorare insieme e si può lavorare insieme per costruire un mondo migliore. E risulta sempre più frequente, diciamo, l'attaccamento alla terra, insomma, di queste lotte, di questo movimento. E, una delle, diciamo, delle analogie più belle che ho sentito all'interno della costruzione del percorso di costruzione di queste giornate, insomma, era quella di un compagno che, citando appunto un comunicato, diceva: c'è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere. Innanzitutto, penso sia veramente un bel modo di approcciarsi al confronto e quindi vi chiedo, cosciente del fatto che nell'arco degli ultimi 20 anni, insomma, i vari semi che sono stati messi da questi movimenti in giro per l'Europa hanno fruttato sotto tanti punti di vista. Ecco, oggi quali sono i semi che questo movimento spera di piantare qui in Europa e come spera di ritrovarli tra 20 anni, tra 10 anni? Allora, dice l'attaccamento alla terra, è l'amor per la terra, è l'apego alla terra, è sempre più frequente nello smovimento de Lucha. Una analogia che hizo un compagno citando un comunicato è che hai un tempo per la. No, un tiempo para la cose para la siembra, ¿no? Y un tiempo para la cosecha. Y parece que es una buena analogía para describir encuentros. Y entonces la pregunta es, en 20 años las semillas han sido sembradas por muchos años y han frutado. Allá hemos cosechado estas semillas. Y la pregunta es, ahora que están aquí, ¿qué semillas quiere plantar y qué cosechas espera de cosechar en futuro? Pues lo que la semilla que queremos que quede acá es que la importancia de la organización. Si no nos organizamos y nos ponemos de acuerdo para entender que hay un enemigo en común, porque puede ser que haya grupos, organizaciones que digan: yo soy mejor que esta, o este que no se puede ver con este, o así como que quieren llevar las luchas separadas porque son cómodas. Y lo digo porque nos ha pasado y nos pasó. Y como que decimos: pues es que mi lucha es más importante que la de ellos porque yo me voy a juntar, y si yo me junto, pues yo lo que yo diga se tiene que hacer. Y no, tenemos que ponernos de acuerdo de que hay un enemigo en común y que la tarea de todos y todas es acabar primero ese enemigo en común y luego ya nos peleamos entre nosotros. ¿Ah? Entonces, como que queremos que se entienda que todas las luchas son importantes, sean grandes, sean pequeñas, sean individuales, sea como sea, cada quien damos una lucha, ¿verdad? Ustedes como radio, la comunicación de estar informando, y no por eso es menos importante ni más importante, todas son importantes. pero ¿cómo lograr ponernos de acuerdo para descubrir a este enemigo? Y está grande y es gigante, y si nos peleamos entre nosotros, le conviene al sistema, le conviene al capital que nos estemos peleando entre nosotros como lo han hecho en las comunidades en México, de que crean conflictos al interior y se están peleando entre comunidades y están dejando que entre el ejército, que entre la marina y que los ponga en paz. Pero entonces ya los quitan y se queda ahí el ejército y ya se aprovecha de la tierra. Entonces nos ha costado trabajo, nos sigue costando, pero como que ya hay más claridad de que tenemos un enemigo en común. Entonces eso queremos que acá quede claro, que tenemos que, respetando cada lucha, por eso decimos cada forma, cada espacio, es importante, pero tenemos que agrupar en algo para derribar algo que es muy fuerte y poderoso y que es este sistema capitalista de muerte. Esa semilla queremos que quede acá, y eso es lo que nos va a hacer, va a ser posible a que tenemos que caminar juntos, ¿verdad? No tanto revueltos, sino dar que a ver, vamos a acordar hacer una actividad en común en México, de qué manera desde acá se puede apoyar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos. En el CNI, después de caminar 25 años, creo que ya nos conocemos, ya sabemos los problemas, los dolores, ¿verdad? Estamos dando de manera colectiva algunas acciones que para nosotros son como la medicina al enfermo. Y nos ha quedado claro que tenemos un enemigo en común, aunque tengamos pleitos muy particulares, pero hay un enemigo a vencer. Y eso nos hace que más que estarnos peleando, que si a alguien no le gusta caminar en este espacio y prefiere un espacio que le da el gobierno, adelante, vete, pero no dañes acá. Deja que camine el CNI. Entonces, pues ha costado, pero ha estado ya la semilla sembrada. Y lo que queremos, los frutos, es que pues empiecen a brotar esos retoños por todos lados de unas nuevas formas de vida que van a ayudar tanto a nuestras comunidades, ¿verdad? Nosotros la tarea que tenemos es la reconstitución integral de los pueblos, porque han sido lastimados, han sido dañados. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir desde la lengua, el vestido, la organización, la fiesta? Es una tarea, pero lo están haciendo, pues. Entonces, pues esos son los retoños que van saliendo de esas semillas que se van quedando. Y pues eso esperamos por acá. No exigimos, simplemente que hay que intentar sembrarla. Si cae en tierra buena, va a salir. Y si no, pues se va a morir la semilla. Pero bueno. Allora, sì, diciamo, il seme principale che vorrebbero piantare è l'importanza dell'organizzazione, perché senza un'organizzazione non si va da nessuna parte, e soprattutto non saremo in grado di lottare contro un nemico comune, che tra l'altro è un nemico forte, potente, e che sta facendo di tutto per farci litigare fra di noi, sia con azioni specifiche che quindi portano le lotte a separarsi, ma anche, come dire, instillando meccanismi per cui, come dire, anche le stesse lotte, le stesse compagne e compagne lo vediamo a volte anche qua in Italia, si confrontano tra loro: ah, io faccio la lotta dei migranti, è più importante della tua, io ho più problemi più seri, mentre invece il problema anche più piccolo, più banale di una qualunque comunità deve avere lo stesso peso, deve essere preso in considerazione esattamente tanto quanto i problemi più seri. Tutte le lotte sono importanti e devono dare un indirizzo collettivo come risposta. E come fare? Come fare a scoprire il nemico che se lottiamo, gli facciamo un lottiamo fra di noi, gli facciamo un favore. È proprio appunto creando organizzazione, coordinandoci fra di noi e lottando contro questi, cioè cercando di eliminare questi conflitti interni che poi portano al fatto che noi siamo in conflitto e il capitale invece rimane lì, permane, non si riesce a scacciare via. Quindi questo lavoro collettivo è fondamentale contro questo nemico comune e, come diceva prima, nel rispetto di ogni lotta, di ogni forma di lotta, quindi anche nelle differenze delle varie lotte, ma dobbiamo costruire insieme il seme contro il capitale che poi pianteremo, che ogni anno proviamo a piantare. Dobbiamo e possiamo cambiare insieme, sia all'interno che anche all'esterno, quindi noi, ognuno cambia, come dire, è artefice del proprio cambiamento, ma sostiene il cambiamento e le lotte delle altre comunità nel mondo, quindi è questo un po' un seme che dovremmo anche noi far germogliare. Nello specifico nel CNI dice: dopo 25 anni ormai ci conosciamo tutti, siamo ben coscienti delle lotte e dei problemi delle varie comunità che ci compongono, e tutte le azioni collettive che abbiamo messo in campo per noi hanno rappresentato una medicina, un toccasana per le nostre comunità, e hanno messo ancora in più luce, confermato questo ragionamento, che tutte le nostre differenze sono in realtà le cose che ci accomunano contro il nemico comune da abbattere, perché è sempre lo stesso il nemico comune ed è sempre alla base di tutti i nostri problemi. Ovviamente non sono, come dire, da questo punto di vista non obbligano nessuno a partecipare, a attivarsi, quindi, come dire, se c'è qualcuno che accetta questa condizione, come dire, che accetta l'offerta del capitale, del grande potere che gli viene offerta, liberissimo di farlo, non in queste comunità, non all'interno di quei percorsi, di quei processi che invece cercano di invertire la tendenza e di piantare semi, perché sennò sarebbe controproducente. L'obiettivo adesso è creare appunto nuove forme di vita a livello, diciamo, collettivo planetario, ma e nello specifico per la situazione messicana la ricostituzione integrale delle comunità indigene che sono state in 500 anni sono state distrutte da vari punti di vista, dalla lingua, la cultura, la cucina, l'abbigliamento, quindi è questo lavoro di ricostruzione per poi poter rilanciare in avanti verso il futuro. Non hanno, come dire, non esigono nulla, non si aspettano che questo seme come dire, porti frutto, e quindi se non porterà frutto sarà visto negativamente, però insomma lo aspettano e lo sperano con tutto il cuore e ce lo augurano. È passata un'ora da quando abbiamo cominciato più o meno questa chiacchierata con la compagna rappresentante del Congresso Nazionale Indigena. Ci saranno altre domande sicuramente. Io vorrei spostare un attimo il discorso verso la politica locale messicana, perché ha accennato un po' la compagna in base a questo rapporto che alcuni compagni, no, hanno con l'istituzione, nel senso, vabbè, vuoi fare parte di quel processo, va bene, lascia lavorare al CNI tranquillo, no? Non essere controproducente. E credo che sia importante da parte sua, da parte loro, del CNI, darci un'idea sul governo di Andrés Manuel López Obrador, perché qua arriva certa informazione, uno si può fare un certo profilo, dipende, no, l'informazione che arriva, e credo che sia importante da parte loro darci la sua visione, il suo analisi, la sua opinione, la loro opinione di questo governo, per capirlo meglio, semplicemente. Decía yo que quería correr un momento el eje hacia la política local, porque hablaste un poco de esos compañeros que pretenden entrar en las instituciones y tal vez son contraproducentes con el CNI, y te quería preguntar, porque es importante para tener otra información, aquí sabemos llega sesgada, y es difícil hacerse una idea completa, un perfil completo, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Entonces querría, si te parece, que nos des vuestra opinión y qué puedes agregar justamente para los italianos, en este caso, y las italianas, que tal vez se hacen una idea, ¿no? Se habla de un presidente a veces progresista en algunas cosas, de hecho él se ha presentado de una forma diversa, digamos, a sus antecesores, desde la comunicación también, ¿no? Teniendo otro, ¿cómo decir? Otro aprocho, otra forma de encarar la comunicación. Entonces querría saber simplemente el panorama que nos podrías dar, vuestro análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Domanda non facile, però credo che sia interessante e ce n'è bisogno qua soprattutto. Decía, non, pregunta non facile, però tenemos realmente necessità qui, credo in Italia, in Europa, di hacernos un'idea con vuestro parecer del presidente mexicano. Si no, nos quedamos con una parte, me parece. Está bien, a ver si me dejan entrar a México. Ya lo hemos dicho algunas pláticas que hemos tenido, de que en México hay algo que está ya diseñado, hay un grupo de poder, un grupo capitalista que yo creo que está fuera de México también y que va aliado con el gobierno, ¿verdad? Y por eso nosotros proponemos otra forma de estructura, de organización desde abajo, porque la que ya está, que es a través de lo electoral, de poner un candidato, un partido, es lo mismo. Aunque se diga del cambio, las cosas siguen igual, ¿no? Y por eso decimos que no es de ahorita, que es algo que ya se tiene trazado, no sé, 100 años atrás o más, y que es lo mismo, ¿verdad? Ocupan del pueblo en tiempos de elecciones, pasan las elecciones y solamente queda arriba el que quedó y el pueblo sigue igual, ¿verdad? Entonces, y dicen las comunidades que no está igual, ahora está peor, pues, acá en las comunidades. Entonces, ahora que decimos que quedó un gobierno de cambio, bueno, lo dicen ellos, nosotros decimos es que no vemos el cambio. Tal vez vemos el cambio de persona, pero vemos que es algo que está igual o peor, porque ahora que quedó este gobierno que se dice el cambio y que primero los pobres y usa algunas frases que el CNI también usa, del mandar obedeciendo, de que nosotros no lo vemos, y lo que vemos es que usa mucho los medios de comunicación en las mañaneras para informar algo, pero en realidad abajo es otra cosa, y lo dicen los pueblos y también ahora ya en las ciudades, pues. Por eso hay mucho descontento, hay mucho, ¿cómo se llama?, cuando se enamoran y después ya el arrepentimiento, pues, porque pues no es lo que se dice. Entonces, por eso, nosotros decimos, es que el cambio no va a venir de arriba, el cambio tiene que venir de abajo, y tiene que ser un cambio que el mismo pueblo, las organizaciones, los barrios, colonias, vayan construyendo, porque de esa manera quien quede arriba va a tener abajo quien le jale los oídos o le esté diciendo o te alineas o te quitas, ¿verdad? Mientras no exista eso, es dejarle que decida quien quede arriba, y él va a decidir pensando en que, pues esto, los indígenas ocupan esto, los trabajadores ocupan esto, las clínicas ocupan, o sea, va a pensar desde lo que le está diciendo el capital. Los que tienen el dinero son los que dicen, ¿no? Entonces, por eso la insistencia de la organización. Está claro que no va a venir de arriba, así se diga que es un gobierno del cambio, que ahora es uno de izquierda, bueno, en México, yo no sé para acá, pero en México no es cierto. La izquierda no es izquierda porque se dice, más bien la tenemos que construir. Y por eso nosotros volvemos a reiterar, esa organización que dijimos cuando salimos a recorrer el país, la tenemos que construir. Si lo que tenemos ahorita que nos han diseñado no da, nos está acabando, nos está matando, pues tenemos que agarrar en nuestras manos esas nuevas formas que queremos y que nos dicen por eso locos, están locos los indígenas que están pensando en que van a hacer algo diferente, pues sí es posible porque se vive en las comunidades y ha resultado y tienen más de 500 años las comunidades y ahí están. Pero les están golpeando esas estructuras que están diseñadas y que tienen que pasar por esa democracia que dicen, algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, pues es lo mismo. Es lo mismo y ha empeorado la situación para las comunidades. Ha sido muy clara, específica, casi sin nombrarlo a AMLO. Creo que no vas a tener problema en volver a México. Y sin embargo ha sido muy claro y nos has ayudado a tener otro panorama del gobierno actual, así que ningún problema. De hecho, leí, porque al inicio de eso para la traducción del compañero, temeva de no poter rientrare in Messico, lo detto, sei stata molto chiara, veramente ci hai fatto veramente un panorama molto ampio e comunque credo che potrai tranquillamente tornare in Messico. Avanti. Allora, sì, dice giustamente, attualmente in Messico, diciamo attualmente, ma da tempo, c'è un'elite capitalista al governo. Dice sembra quasi che sia anche in collegamento con con potenze esterne, che se questa elite sia anche superi i confini nazionali e che però attualmente sembra essere alleata anche a questo governo che si dice essere un governo del cambiamento. Dice il partito del cambio però non ha cambiato nulla, continua nella stessa direzione degli ultimi 100 anni. Con lo stesso modello per il quale, modello che conosciamo a volte anche noi molto bene, che sotto elezioni tutti a fare campagna, a promettere, a stringere mani, poi una volta incassato il voto, ciao a tutti, nessuno si fa risentire e dice il problema è che molta gente aveva creduto a questo governo del cambiamento e quindi aveva dato il proprio sostegno e ci aveva anche caricato le proprie aspettative e adesso si trovano in una situazione di disamoramento, dice proprio come quella che si soffre per pene d'amore perché si sente fortemente tradito per l'ennesima volta dal governo che si diceva essere di sinistra ma appunto che è una sinistra falsa, che in realtà porta avanti meccanismi e processi che nella materialità dei fatti, soprattutto più in basso scendiamo, ci uccide. E, quindi insomma è peggiorata, paradossalmente è peggiorata la situazione, perché sono cambiate sì le persone, ma non è cambiata la struttura, o meglio è cambiata, come dire, in maniera maligna, perché nel senso ha cominciato a usare anche molte delle retoriche stesse che usano i movimenti di lotta, quindi insomma del cammino obbedire, non comandare, tutti questi 7 principi che sono alla base del CNI, e hanno fatto un ampio uso della comunicazione, ma ovviamente la comunicazione online e quindi di chi ha gli strumenti, mentre invece le comunità in basso la comunicazione è stata un po' carente. E tutto questo dimostra per l'ennesima volta che il cambiamento non potrà mai arrivare dall'alto, ma dovrà sempre arrivare dal basso. E devono essere i popoli, le comunità, i collettivi, le colonie a doverlo costruire insieme. E a dover, come dire, a spingere fino ad arrivare appunto a far capire a chi sta sopra che o fai quello che diciamo noi o te ne vai, non ci servi. Perché la situazione dice, attuale è che appunto i potenti, chi governa, dice ok, la medicina si occupa di questo, la sanità di quest'altro, ma sempre come campo di attivazione capitalista, non per risolvere il problema specifico. Quindi l'organizzazione collettiva è necessaria, è fondamentale per costruire una nuova sinistra, diciamo, che faccia i nostri interessi e di cui noi possiamo essere parte. E anche per fermare la narrazione che dice nello specifico giù in Messico che gli dicono che sono pazzi, che sono dei folli a avere questa idea, no, quasi utopistica di collegare e unire tutte le lotte, ma loro rispondono sono più di 500 anni che noi andiamo avanti così, tendenzialmente andiamo avanti bene da questo punto di vista, quindi cioè, nel senso dal punto di vista della resistenza e della costruzione delle lotte sta funzionando. E quindi continueremo ad andare avanti così. E, proprio su questa ultima affermazione, quella sul costruire una nuova sinistra, stiamo vivendo qui in Italia una cosa che potrebbe essere presa in considerazione in questa riflessione che stiamo facendo, ossia il caso di Mimmo Lucano, no? un compagno, una persona che prova attraverso le istituzioni a cambiare appunto quello che viene identificata come sinistra istituzionale, no? Abbiamo visto tutti e tutte, insomma, qual è la risposta appunto dei governi e delle istituzioni. Sotto questo punto di vista, visto che loro stanno appunto cercando di dialogare con quello che li circonda, sarebbe interessante sapere quali sono state, se ci sono state, capire quali sono insomma le prime difficoltà e i primi intoppi di questo parlare appunto con il governo. Aquí en Italia tenemos un ejemplo también de gente, de ciudadanos que utilizan las instituciones para intentar cambiar esta izquierda, este sistema. En Italia tenemos un ejemplo, no sé si has contado, de Mimmo Lucano, que es el alcalde de un pequeño pueblo en el sur de Italia que hizo muchos proyectos institucionales con la fuerza de la alcaldía por la acogida de los migrantes. Y lo hice tan bien que el gobierno y también las fuerzas institucionales de la izquierda no le gustó y lo atacaron. Ahora está condenado a 17 años de cárcel, 14 años de cárcel para favorecer la inmigración clandestina en Italia. Entonces, ¿no? La respuesta de las instituciones hasta quién quieren cambiar ha sido muy, muy violenta. Y entonces quiero saber, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades principales en esta relación de los pueblos con las instituciones? Todas. Pues no hay una relación directa CNI instituciones porque pues no hay una apertura donde puedan alcanzar los pueblos, las comunidades. El llegar ahí es como convertirse y pensar como ellos, pensar no en las comunidades. Por eso decía que hay hermanos, hermanas que ahora que quedó el gobierno de cambio les invitaron a ser parte de ocupar un cargo. Y tampoco les podemos decir, no vayas, pues es que es la conciencia de cada quien, ¿verdad? Entonces, porque dice, es que no es cierto, o sea, llegan y se transforman y ya piensan como el mandón, pues dice. Entonces, por eso no ha habido un acercamiento como CNI, que digamos, vamos y ser parte de una comisión, o no, porque mientras no veamos que camine diferente, no va a haber un acercamiento, ¿verdad? Tal vez alguna que otra comunidad tenga que ver algún asunto agrario, pleito de conflicto territorial, pero que tenga que ver con alguna dependencia en particular, pero no como CNI, ¿verdad? Sino que muy particular la comunidad y un asunto de tierra, conflicto de tierra. Pero no hay confianza en las instituciones. Mientras no haya algo que surja desde abajo, por eso ahorita nuestra preocupación principal es hacer más fuerte al CNI desde abajo, ¿verdad? Ir fortaleciendo su autonomía, que es lo más importante, ¿verdad? Ir fortaleciéndose abajo porque ha sido muy destruida las comunidades. Hay unas más fuertes, hay otras más destruidas, y entonces nuestra tarea principal es quitar esos partidos políticos que son los que han dividido al interior, quitar esos programas de apoyo, no tanto nosotros, sino que la gente vea que si le están ofreciendo un programa, una ayuda, por ejemplo, ahorita en el Tren Maya, en el Interoceánico, en el Proyecto Integral Morelos, les han llevado apoyo, les han llevado, pues nosotros decimos dádivas, pero es para elevarlos o es para dividir a las comunidades y que fácilmente puedan trabajar en esos proyectos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra tarea principal, cómo ir, que se entienda al interior de las comunidades, que si nos han destruido a través de estas formas que usa el gobierno, es porque no está de acuerdo en la colectividad, en las comunidades. Entonces, por eso la importancia de irnos reconstruyendo, ¿verdad? Entonces, por eso no hay un acercamiento, porque cada que hay un acercamiento hay una lesión al interior de las comunidades. Entonces, ¿cómo puede haber un acercamiento garantizando que no golpeen, que no discriminen, que no les impongan? Pues mejor nos alejamos tantito para poder fortalecernos al interior, ¿verdad? En eso estamos. Allora, non dice il CNI non c'è una relazione diretta con le istituzioni, proprio perché non c'è uno spazio di apertura, non c'è semplicemente. E alcuni fratelli e sorelle, insomma alcuni compagni giù, hanno comunque invitato il governo a partecipare, insomma a costruire qualcosa. Loro come CNI hanno detto sì, però attenti, perché comunque sarà sempre problematico, ma ha comunque lasciato la libertà individuale di scegliere i propri strumenti di lotta. E sempre per questo motivo non fanno parte di nessuna commissione intergovernativa o diciamo più o meno istituzionale, ma come dire seguono in maniera autonoma, no, tutti i vari conflitti che ci sono, per cercare di affrontarli insieme e dare una risposta comune e collettiva. L'obiettivo principale ovviamente è rafforzare il CNI e l'autonomia dei processi popolari delle comunità che sono state distrutte, perché hanno visto che ogni avvicinamento con l'istituzione, con il potere, portava con sé una forma di lesione comunitaria, quindi venivano in qualche modo colpite, quindi c'era sempre un rovescio della medaglia, e quindi hanno detto tanto vale allontanarsi, così da poter allontanarci così da poter costruire i nostri processi in maniera più autonoma e avere anche più forza. Adesso, come dire, sono concentrati sul cacciare i partiti, nel senso diciamo politico, e i programmi sociali falsi che propongono, e anche i programmi economici. Faceva l'esempio che dei vari megaprogetti, diciamo le grandi opere che stanno adesso, che il governo messicano sta portando avanti, tra cui il Tren Maya, il treno transoceanico che collegherà i due oceani, e grandi opere anche di gasdotti e energia termoelettrica, che vengono presentati insieme a tutta una serie di incentivi, aiuti e diciamo benefici economici per le popolazioni, che ovviamente essendo popolazioni diciamo indigene, autoctone, comunque alla base della società, per loro è conveniente, però, e quindi molti ci cascano, accettano questa offerta. E il lavoro del CNI è lavorare, parlare con le comunità per far capire il rovescio della medaglia, che il vero obiettivo non è non è un atto di condivisione della ricchezza, ma è un dote des, cioè un atto di compravendita in cambio dai cedi diritti, benessere e risorse. Tendenzialmente l'azione del governo materialmente non va proprio in accordo con l'azione delle lotte, quindi è un po' difficile riuscire a creare questa unione. Ci ha raccontato la compagna com'è il non rapporto, la non relazione, no, con le istituzioni. E considerando la multiculturalità del Messico, io vorrei chiedere forse qual è la relazione con quella parte della società civile che non si sente parte, non si considera parte delle comunità autonome, delle comunità indigene, no? I metici, i bianchi. che alla fine sono governati dallo stesso governo. Quindi farò questa domanda per sapere come vedono loro questo rapporto con questa parte della società. Decía yo que México es un país multicultural. Bien, nos has contado cuál es la no relación que hay con el gobierno. Yo estoy interesado en que nos cuentes tal vez la relación que tratan de tener, la comunicación con el resto de la sociedad mexicana, aquella que no se siente parte de los pueblos originarios, ¿no? La parte blanca, la parte mestiza, pero que obviamente puede compartir las ideas. Pensaba, por ejemplo, al pueblo mapuche en Chile, que tiene que confrontarse con el Estado chileno que ocupa su territorio y al mismo tiempo tiene que también establecer puentes con el resto de la sociedad chileno mapuche interesada en ser solidaria con su lucha, porque tienen que tratar de hacer entender que su lucha es la lucha de todo el pueblo, por el respeto de la naturaleza, por el cuidado, por ir contra el extractivismo que propone el Estado chileno y así vía. Entonces, me gustaría saber eso, cuál es la relación que trata, cuál es la situación en esta relación que puede tener el CNI o las distintas comunidades, digamos, con el resto de la sociedad multicultural mexicana, con la cual puede encontrar solidaridades, pienso, y también oposiciones, imagino. Sí, rápidamente, porque creo que ya nos vamos. Sí, en el 2017 salimos a recorrer el país, visitando los diferentes pueblos y comunidades, pero también conviviendo con organizaciones, colectivos, y fuimos encontrando que justamente hay organizaciones y grupos individuales también de que luchan por lo mismo que los pueblos. Sienten que es necesario articular esas luchas. Entonces, tratamos en México de llevar una relación más cercana con algunas organizaciones, sobre todo que nos pueden ayudar con algunas herramientas que los pueblos ocupamos, de todos, pues. Entonces, en eso estamos. Es un poco más difícil, pero no imposible, porque lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer y que pues esto pues no es nada más, como decía en una intervención anterior, no es tarea de los pueblos. Sí es importante, vemos que tenemos que reforzar estos esfuerzos colectivos por salvar este planeta, pero en esto están todos, ¿verdad? Todos y todas, en las ciudades también, y que y pues eso ha quedado más o menos claro en México, que tenemos que articular esas luchas donde estemos, trabajadores del campo y la ciudad, porque si no, no vamos a lograr lo que queremos, ¿verdad? Y si queremos seguir teniendo vida para los de que vienen atrás, pues tenemos que hacer el esfuerzo de ir articulando esas otras luchas y esas otras resistencias, ¿verdad? Allora, nel 2017 il CNI si è candidato alle elezioni presidenziali del Messico e quindi per fare la campagna, raccogliere le firme, hanno avuto modo di girare tutto il paese, sono entrati in contatto con gruppi, organizzazioni, comunità, ma anche singole persone, singoli che portano avanti le stesse lotte in altre parti del paese o che si sono riusciti a costruire l'idea che sono parte della stessa lotta. Ovviamente questa relazione con le comunità vicine, non geograficamente ma politicamente, è difficile perché bisogna armonizzarla, ma è assolutamente possibile perché, come ha detto anche prima, non è compito dei popoli originari questa lotta, ma è un compito collettivo di tutte e tutti. Sono riusciti a far capire un po' a tutti in Messico questa condizione, quindi questo processo di unione, di correlazione con le valute si sta dando, e proprio nell'ottica che se non si riesce a costruire quest'unione, questa relazione, non ce la faremo a costruire un mondo migliore per le future generazioni, e quindi bisogna farlo. Va bene, vi ringraziamo, ringraziamo Mary Giulia e a tutti quanti i compagni che insomma ci hanno dato una mano affinché stato possibile questa intervista. E sappiamo che sono giorni molto difficili, faticosi e frenetici, quindi non vi rubiamo altro spazio. Vi diciamo solamente che, insomma, Radio Onda Rossa è casa vostra e casa di tutti quanti i popoli in lotta. Muchas gracias. Por la disposición y por la amabilidad, realmente, y por la claridad en las palabras. Ringraziamo quindi ancora, grazie ai compagni che hanno fatto la, la traduzione, e vi ringraziamo voi per aver ascoltato questo meraviglioso confronto che abbiamo avuto qua su Via dei Volsci, storica sede di Radio Onda Rossa. Grazie e continuate ad ascoltare l'87.9. 28 ottobre, da Radio Onda Rossa è tutto, buona lotta.